incognita volgesse portare il fin dell'avventura io voglio. Di quella giovine che vede nel tempio da treveti ogni festa la sua dimora in un remoto calle misterioso non vedrà ogni notte. Questa con lei chi sia la madre suo l'ignora. Quante beltà mirate le vince tutte vince tra la sposa non voda il conte o duca ma che importa morale tra ipotria né sventura per me certo saria. Questa duella per me pari sono a quant'altro l'intorno intorno mi vedo e mio cuore l'impera dal cielo meglio dura che ad altra beltà la costora penenza e quel dolo che le quadro dei fiori la vita sogni questa intorno gratita forse un'altra forse un'altra dov'allo sarà una la costanza tirana del cuore detestiamo qual morbo crudele so chi vuole ci servi fedele non pavor se non v'è libertà dei mariti di geloso furore delle amanti smani e perino ancora arrigo i cento che li sfino se mi pugno è una qualche verità a sei se mi pugno una qualche verità partite crudele seguire lo sposo e portaci l'uomo ma de luminoso in corte dall'astro quale sole brillare per voi cui ciascuno dovrà palpitare voi già possente la fiamma d'amore in ebria conquire distrugge il mio cuore con notte la fiamma d'amore in ebria conquire distrugge il mio cuore per voi già possente la fiamma d'amore in ebria conquire distrugge il mio cuore in testa che avete signor di Ceprano e sbuffa vedete che mi sposi di cupa di porsi di verde così non è sempre che nuove scoperte il gioco del vino le teste le danza battaglie col ditti del tutto le sta or della contessa la sedia e l'avanza e intanto il marito fremendo ne va. Infine, l'amante, un amante che crede. Il troppo in cupido per sé trasformato, un mostro, cupido, cupido beato. A più c'è prela di fortuna non me, la cara sua sposa è un angelo per me. Rapidola, è detto, ma il parlo stasera non pensi al conte. Non c'è la prigione, allora? Ebben, se sì, nemmeno buffone. Allora, allora la testa, con l'anima nera, che di questa testa? È ben naturale, e farmi tal testa, ma cosa è la male? Non rovo! Fermate! Dovinomi qua! Mi fuori mandato! Volevi in qua! Mi fuori mandato! Mi fuori mandato! Mi fuori mandato! A sempre tu spingi, lo sei del cano, se dato, che il corpo si è di poco, e di noi non andiamo. Quell'idea che spingi, ordinarti, tornare, e dopo sei a lui, e il sogno tutto che sarà. Contro noi, signore. E noi, e noi clementi in vero perdonammo. Qual di piglior delirio a tutte l'ore vostra figlia a reclamar l'onore. Novello insulto a sia turbare, a sia turbare, sarò vostro orge, verrò a gridare fino a che veggo restarsi inolto di mia famiglia l'atroce insulto. E se al carnefice pur mi darete spettro terribile mi rivedrete, portante in mano il teschio mio, vendetta chiede, vendetta chiede al mondo, al mondo a Dio. Io, arrestatelo! È morto! Poi detti! O siate entrambi voi maledetti! slanciare il cane al leon morente e vile o duca e tu serpente tu che un padre ridi al dolore si maledetto niente nel chiesi a voi presente un uomo di spada sta un ladro un uomo che libera per poco da un rivale e voi li avete vostra donna e la che sento e quanto spendere per un signor dovrei prezzo maggior vorrei com'usa si pagar una metà s'anticipa il resto si da poi come puoi tanto sicuro prar sol in città di uccidere oppure nel mio tetto l'uomo di sera aspetto una stuccata e muor e mania e come in casa è facile aiuta mia sorella per le vie danza è bella, mi voglio attira e allor comprendo senza strepito, comprendo. E questo il mio strumento vi serve? No, al momento. Peggio per voi, chissà. Siamo, io ho la lingua e gli ha il pugnale, l'uomo sania che ride, ehi quel che spegne. Si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa chi arrida, buffone, forzarvi te giù e farlo. Oh, dannazione! Oddio voi, cortigiani schernitori, quanto è mordervi io gioia, thank you. pensiero, perché conturbani or la mente mia. Mi coglierà sventura, anno e follia. Altri mi maledicono. Patria amici, molto famiglia, la patria, il mio universo in te. Seguirla, rapirla ancora, qui in un buffone si dissonora la figlia e se ne ride. Horror! Alà! Signor! Venendo, mi vede alcuno? Bada, il vero? Ma no, nessuno! Sta ben! La porta che dà al bastione è sempre chiusa. Ognor si sta! Bada, ognor il vero! Si sta. Vada il vero. Veglia donna, questo fiore che a te puro confidai, veglia attenta e non sia mai che sa fuori! Cima! Alla chiesa vi seguiva mai nessuno? Mai! Se i calor qui picchian, guardatevi d'aprire! Nemmeno aiuto! Non che ad altri a lui! Mia figlia, Dio! Sua figlia! Addio, mio padre! Oh! Grazie. Ermalde, studente sono e povero. Rumor di passi tuoi, accogliere potessi il traditore che si mi scorda. Infamera in tu, intera vita, poi addio, addio, speranza d'arrivà. Addio, addio, speranza d'arrivà. Solo tu sarai. Solo tu sarai. Solo tu sarai. Solo per me. Addio, addio. Addio, addio. Addio, addio. Ti perdi, perdi, nel mutabile l'affetto mio per te, per te. Ti perdi, perdi, nel mutabile l'affetto mio per te. Mi trai mutabile l'affetto mio per te. Addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, fare a doppia, non si depremo. No, e domani non riderei. Or tutto adesso. Chi parla qua? Rigoletto. Chi va là? E non mandarci. Sorti. Marullo. Intanto buio, lo sguardo è nullo. Vivei con cose, gridei qualcosa, corre a cercare, voglia nascosa. Ahimè, respiro, ma come entrare? La vostra sale, non dubitare. Ondei mangiarci, nostra tagella, ecco la chiave. Sento il suo stemma, ma per orfano fu dunque il mio. Nella il palazzo, ma voi salio. Siamo mascherati. Io pur mi mascheri, a me una larva. Si pronta e va, terra e la sala. Ma il terra. Una bella cieco di sguardo al fa. Zitti, zitti, buon lavoro, c'è di Nezio, poco se che me la spetta, e qui sono io, se ho questa mia, posso, uomo, da schermi, come sarò, che ti, più capi, come a te, e la qualche, come a ti, che la me, e ti, più capi, come a te, e la qualche, come a te, la me, thank you. breve istanti, prima che il mio presagio interno sull'arma corsa ancora mi spingesse. Chiuso era l'uscio e la magion deserta, e dove ora sarà tua lancia il caro, colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei si pura cui molesto sguardo quasi spinto a virtù d'onor mi credo. Ella mi fu rapita e chi l'artiva non ne avrò, non ne avrò vendetta. Ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto.

Lola, Lola, Lola, come l'avrà nascosto? Guardate come quieto. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Sì. La la la la la. Guardate come quieto. Son felice che nulla voi nocesse. L'aria di questa notte. Questa notte? Sì, ho fulme il colpo. S'ha dormito sempre. Oh, voi dormiste. Avrò dunque sognato. La la la la la la la la la la la la la la. Ve, come tutto serva. Ma nessuno. Dorme duca, tutor. Sì, dormi ancora. Oh, suo sposo, parlar voi la duchessa. Dorme. Qui, orar con voi non era. E a caccia. Senza paggi, senza rio. E non capisci che per ora del bene non qualcuno. Ella è qui dunque. Ella è caduta. Sì. È la giovin che stanotte al mio tetto. Ma la saprò riprender, e la la se l'amante vedessi la ricerca altrove. La mia figlia sì, la mia figlia d'una tal vittoria che adesso non ridete. E la la la voglio, la detterete. Artigiani e la razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? A voi nulla per loro sconviene, ma mia figlia è pagata il tesor. La rendete o se pure disarmata, questa man per mai farà cruenta. Nulla in terra più l'uomo paventa, se ne figlie difende l'onor. Quella palla, assassini, assassini, ma aprite la porta, assassini, ma aprite. A me contro, venite, tutti contro me. Oh, e ben piango, Marullo, signore, tocca l'alma gentil come il cuore. Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Tutto è taci. Ahimè. La figlia ridate. Furtivo frale te Compiuto per quanto a fare mi resta, lasciare potremo quest'aura funesta. È tutto un sol giorno, cangiare potei. Chiudete il carcere. Me maledetto ferro colpiva il tuo petto, felice pur anca adduca vivrà. No vecchio t'inganni, un d'indice avrai. Sì. Oh, a guarirne t'ho lasciato. Io l'amo. Povero cuor di donna, hai il vile infame. Ma ne avrai vendetta oggi là. E se tu certa fossi che ti tradisse, l'ameresti ancora? Non lo so, ma pur m'adora. Egli? Sì. Ebben, osserva dunque. Per poco attendi. Oh, padre mio! Due cose e tosto. Quale? Una stanza e del vino. Son tui questi costumi. Poi del cervello. Sempre un amabile leggiadro viso, il pianto e riso è menzognero. La donna è notti, qual più al vento, muta l'accento e di pensier. E di pensier. Sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mai cauto il cuore, pur mai non sentesi felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è notti, qual più malvento, muta che pensier e di pensier e pensier. la bella mano candida. Siete voi, signore. Allora, son brutta. Abbracciami. L'amore ardente. Signore, che prende, mi piace cazzo. Basta ancor. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto so. Oh, casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'ha prestai, e per Verona parti, s'arrovvio pur doman. Or venite. Impossibile. Tremo. Va. Venti scudia e turetto, eccone 10, e dopo lo pre il resto. Ehi, qui rimane. Sì. Alla mezzanotte ritornerò. Non tale, a gettarlo nel fiume basto io solo. No, no, il vuo fare io stesso. Sia. Il suo nome. Vuoi sapere anche il mio? Delitto Unizion sonio La tempesta è vicina Più scura via la notte Pioverà fra poco. Tanto meglio, tu dormirai in scuderia all'inferno ove vorrai. Oh, grazie. Ora partite. Con tal tempo. Son 20 scudi d'oro. Ben felice d'offrirvi la mia stanza. Se a voi piace, posso a vederla andiamo. Ebben, sono con te. Presto. Vediamo! Povero Giovi! Si 20 scudi ne do il prodotto. Sono 20, sono pochi, ma levare più. La spada sei dorme, fa, portami giù. ragiono, amor mi trascina, mio padre perdono. Quale notte d'orrore, gran Dio, che accadrà, fratello? Parliamo che no. Somiglia un Apollo quel giovine, io l'amo e mamma riposi di più. La tua col sacco. Perché? Mentre sul tuo polo scozzato da me c'è tanto dal fiume. L'inferno, l'inferno. E pure il denaro salvare ti sometto, serbano lo invito. E feci nel credo. Ascolta, anzi pace ti sveglio un progetto. Discuti già geci, tocco ne vesti, venimi con gli altri petardi e vedrai. O cielo e senti, avrò ne avrai, così tutto il prezzo godi si potrà. Uccide il tuo corpo, che diavoli ceste, un ladro so forse, so forse un bandito, qual'altro cliente. Da me fu tradito, mi paga quest'uomo, fedele m'avrà. Ma grazie per il suo, e tu non mi paga. Tu chiedi il cuore il suo, buona figliola. Mi scudi per gli anni, lascia fare. Salvare la mia, salvare la mia. Sapete me mezzo la notte, mi cano, al muro che giunga, me ne so vorrà. Che cano, la notte, il cielo troppirato, nessuno che scola da qui passerà. Ho fuori tentazioni, morire, per il tratto, morire, mi accado. Mezz'ora. Attendi, fratello! Che piange tal donna mia vita rohita! Ma se le innamori ti vennero bella, io vo per la sua a gettar la mia vita! Se no... Se picchiati di cuore... Questi la rocchiere! Ma quanto vedete? Sospiri tutto della vendetta al fin giunge l'istante da 30 dì l'aspetto di vivo sangue a lacrime piangendo sotto la larva del buffon. Quest'uscio è chiuso. Ah, non è tempo ancor. S'attenda. Qual notte di mistero, una tempesta in cielo, in terra un omicidio. Come in vero, qui grande mi sento. Mezzanotte. Sono io! Spostate! E qua spento il vostro uomo! Oh gioia, un lume! Un lume! No, il danaro! Lesti all'onda il gettiamo! No, basto io solo! Come vi piace! Qui ne dato il sito, più avanti più profondo il gorgo, presto che alcun non vi sorprenda. Buonanotte. Egli è là, morto, oh sì. Vorrei vederlo, ma che importa, è ben desso e coi sasproni. Ora mi guarda mondo, questo è un buffone, e non potente questo, e sta sotto i miei piedi, e adesso giunta al fine la tua vendetta o duolo, sia l'onda lui sepolcro, un sacco il suo lenzuolo. All'onda, all'onda. Al voce. Illusion notturna è questo. No, no! No! Egli adesso, maledizione, alla di mal bandito! Corpo. mia figlia, Dio, mia figlia. Ah no, è impossibile, per Verona in via. Ed esso, oh mia figlia, fanciulla, a me rispondi, l'assassino mi sfrea. Oh. Nessuno, nessun, mia figlia, mia Gilda, oh mia figlia. E la parla, si muove, è viva, oddio, mia ben solo intera, mi guarda, mi conosci. Oh, padre mio! Qual mistero, che fu, sei tu ferita, dimmi, thank you. Gilda, mia Gilda, è morta.